Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. L'infezione da coronavirus nei pazienti reumatologici non è particolarmente frequente. Il rischio di contagio non sembra essere aumentato. Quando però il virus colpisce questi malati, la prognosi può essere severa. Il dato emerge da Control19, il primo registro al mondo sugli effetti del coronavirus nei malati reumatologici, che è stato promosso dalla SIR, Società Italiana di Reumatologia, e ne parliamo oggi Obiettivo Salute col presidente, il professor Luigi Sinigaglia. Sì, il registro è stato istituito ai primi di marzo, cioè nel pieno dell'epidemia, e risponde all'esigenza di conoscere quella che è il destino dei pazienti reumatologici che vengono a contatto con il virus SARS-CoV-2. Diciamo che questi sono soltanto pazienti che avevano un'infezione accertata con tampone e sono dei casi molto severi, perché in quel periodo i tamponi venivano fatti soltanto ai pazienti più gravi. Comunque abbiamo analizzato già i dati su 165 pazienti che avevano un'età di 62 anni, erano per la maggior parte donne, e questo riflette la distribuzione dei generi nelle malattie reumatiche. Nel 35% si trattava di artrite reumatoide, nel 21% di spondiloartriti e nel 18% di connettiviti sistemiche. Tutti i pazienti avevano almeno due comorbidità nel 50% dei casi, e il 73% di questi pazienti è stato ospitalizzato. Avremo modo di analizzare i dati su un numero più congruo di pazienti in futuro. Intanto i nostri dati vengono immessi quotidianamente nei registri internazionali, che annoverano un numero molto maggiore di pazienti e che ci consentiranno di valutare molto meglio la situazione su un'ampia coorte di pazienti reumatologici. È cambiato il modo di curare le donne con tumore al seno durante la pandemia Covid-19? A questa domanda ha cercato di rispondere un'indagine internazionale condotta da EUBREAST, associazione di ricerca internazionale sul trattamento chirurgico del carcinoma mammario. A Obiettivo Salute il dottor Oreste Gentilini, primario dell'unità operativa di chirurgia della mammella, coordinatore Breast Unit all'ospedale San Raffaele di Milano. Questa indagine hanno partecipato 377 centri di senologia di 41 paesi in tutto il mondo in soli 10 giorni. Innanzitutto solo il 45% dei centri hanno eseguito il tampone per il coronavirus prima delle cure, e poi la lista d'attesa è aumentata in maniera considerevole, superando un mese nel 27% delle istituzioni. La percezione diffusa è stata che la chemioterapia possa aumentare i rischi per il coronavirus, e questo ha condizionato diversi cambiamenti, ad esempio riducendo le indicazioni ad eseguire una terapia sistemica prima dell'intervento. Un dato invece favorevole è stato l'aumento del ricorso ad analisi di espressione genica nell'intento di ridurre le chemioterapie non vantaggiose. Invece nelle pazienti con neoplasia estrogeno positiva, nella maggior parte dei casi, è stata iniziata una terapia ormonale per poter posticipare la chirurgia in regime di sicurezza. Quindi adesso noi medici dobbiamo tornare agli standard di trattamento pre-Covid, mentre le donne devono riprendere i loro controlli periodici per evitare ritardi diagnostici che potrebbero essere pericolosi. Grazie, per oggi è tutto. Sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute, oggi video con il dottor Giorgio Guidetti, otoneurologo, presidente della Società Italiana di Vestibologia e direttore del Vertigo Center di Modena, per parlare di vertigine e mancanza di equilibrio. Vi aspetto, non mancate, una buona giornata da Nicoletta.